nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, versione da remoto. Anche questa domenica, come tutti, lavoriamo da casa, eh? E lavorando da casa succede a chiunque in questa situazione di ritrovarsi a dire: ma sai che quasi quasi multitasking non è una fregatura? Perché? Perché facciamo tante cose e questo fare tante cose fa sì che la giornata passi rapidamente. Non so a voi, a me passa in un soffio, lavorando da casa, occupandosi poi delle cose domestiche, occupandosi dei familiari con i quali si convive, insomma. Dal mattino, con sveglia presto, perché come sapete con 24 mattino si comincia abbastanza presto al mattino, e si arriva poi alla sera stanchi e in un attimo è notte, è buio, si torna appunto in letargo. Ma non di letargo parliamo questa domenica, parliamo di cose attive, perché ci è venuto in mente che, come si dice, da questa crisi possa uscire qualcosa di buono, possa uscire un'opportunità. Settimana scorsa, ve lo ricorderete, abbiamo guardato con preoccupazione anche all'aspetto occupazione, o meglio disoccupazione, che potrebbe toccare alle donne. Ne abbiamo parlato con una sindacalista della CGIL e voi ci avete lasciato anche i vostri messaggi al numero che, ve lo ricordo, è 828 12 12. Ci siamo occupati di occupazione perché ci siamo chiesti: ma saranno le donne le prime a essere licenziate? Oppure, dal punto di vista invece degli effetti del coronavirus, siccome a quanto si dice il virus attacca più gli uomini che le donne, secondo appunto gli esperti che hanno identificato negli uomini quelli più a rischio di coronavirus, ebbene, saranno le donne a tornare prima al lavoro? Sentite quel che ci ha raccontato uno di voi. Sembra di tornare indietro di secoli. Ai tempi dei conflitti mondiali, ricordo, quando i martiri partivano per la trincea e le mogli li sostituivano in fabbrica e nei campi. È un fatto che la guerra globale al virus si tinga di rosa? Insomma, a quanto pare le donne si ammalano meno. Qualunque siano le ragioni, che ne pensa, dottoressa, della proposta, che sa un po' di provocazione, ma forse nemmeno troppo, e vale a dire il virus è e pare più aggressivo negli uomini? Si potrebbe forse pensare di far tornare prima al lavoro le donne? Le sarebbe favorevole? Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa. Grazie mille, ciao! Dunque sì, sostanzialmente sì, certo, sono favorevole che laddove si dovesse procedere per scaglionamento si possa far tornare al lavoro prima le donne, se davvero c'è evidenza che esse siano meno fragili rispetto al coronavirus. C'è tutto l'aspetto di gestione domestica di cui comunque bisognerà tenere conto, ma magari è la volta buona, dico io, in cui se torna al lavoro prima la partner in una famiglia, a gestire tutto il resto sarà il papà. E non è una cosa che, come dire, non si può fare. In questi giorni lo stanno facendo un po' tutti, il lavoro domestico condiviso, tutti e due in casa, quindi sì, sono favorevole. C'è quest'altro invece messaggio vocale che, come sempre, è arrivato, ve lo ricordo, all'828 12 12. Sentiamo. Maria, chiederei che sempre attenti a questi temi, sento parlare di una rivoluzione, diciamo, gentile che potrebbe presentarsi, arrivare magari nella post quarantena, quando ci sarà rientro delle persone al lavoro, che ovviamente non avverrà tutto insieme ma per fasce d'età. Ecco, possiamo pensare di usare la popolazione femminile un po' come se le donne fossero dei semafori rossi? Grazie. Le donne semafori rossi, beh, Beh, fantasiosa questa visione. Ripeto, non sappiamo ancora come si rientrerà, non sappiamo nemmeno se si rientrerà. Ci sono varie ipotesi, c'è anche chi ha sostenuto che si possa rientrare per filiere di produzione, no? Prima quelle che è più urgente far tornare al lavoro, aziende che devono assolutamente riaprire, così per esempio ci ha detto il ministro dello sviluppo economico Patuanelli, che è stato nei giorni scorsi ospite di 24 Mattino, o c'è chi propone invece un'apertura per regioni a seconda delle aree che finora sono state meno toccate dal virus. Non lo sappiamo come si procederà. Vorrei anche dirvi che ci mettiamo l'anima in pace fino a Pasqua, non pensiamoci a come si tornerà, perché tanto si rimane in casa per ora. E poi vedremo quale sarà la scelta, si spera ponderata, che verrà fatta. Certo, chi ci deve pensare è bene che ci pensi ora, per tempo. Oh, questo per quanto riguardava la puntata di domenica scorsa, con i vostri messaggi arrivati all'828 1212, mentre, come vi dicevo, noi oggi vorremmo parlare di attività, di quello che si può prevedere di buono venga dal dramma di queste settimane. Intanto cominciamo a ragionare sul fatto che proprio in queste settimane abbiamo visto al lavoro e in azione la generosità di tanti, il volontariato di tanti. Come sapete, ne abbiamo già parlato, nessuna è perfetta, le donne nella sanità sono maggioranza, oltre 400.000 quelle che si prendono cura della nostra salute, quindi più del 67% del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale. Un trend, quello delle donne impegnate come medico, come infermiere, come operatrici sanitarie, un trend che è in crescita da almeno 10 anni, perché se nel 2010 erano il 63,7%, oggi, come vi dicevo, sono il 67%. Questo per quanto riguarda il Servizio Sanitario. Lasciatemi dire, l'ho già fatto nelle puntate precedenti, ma lo voglio fare di nuovo, un abbraccio a tutti, i medici, gli infermieri, gli assistenti, tutti coloro i quali in queste settimane stanno dando davvero una grandissima prova di professionalità e di generosità nei nostri ospedali e anche nei vari presidi sanitari. Ma che cosa si potrà fare dopo, quando finalmente il coronavirus l'avremo, si spera, sconfitto e avremo imparato quanto è importante essere solidali ed essere pronti? Perché il rischio è che se no abbiamo passato un mese, 2 mesi sul divano, poi ci rialziamo e non ci resta niente di questa esperienza. Allora, invece di stare là sul divano e dire: beh, ma hanno sbagliato questo, hanno sbagliato quest'altro. Proviamo a immaginare come potremmo da questa esperienza negativa, come dire, apprendere delle cose e far sì che si sia tutti più preparati. Perché faccio per dire, se noi avessimo avuto una popolazione capace di gestire autonomamente piccole cose elementari di base, piccole cose sanitarie di base, forse avrebbe potuto esserci un supporto, un aiuto a chi negli ospedali era alle prese con l'emergenza, e tutto questo, come dire, avrebbe aiutato a risolvere l'epidemia forse più rapidamente. Tra l'altro, anche nel servizio civile il primato spetta alle donne, che sono il 62% del totale, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Le ragazze coinvolte nei vari progetti sono state, pensate, oltre 26.000 nel 2017, e il numero delle ragazze che scelgono di fare servizio civile cresce di anno in anno ed è più numeroso rispetto a quello dei ragazzi. Bene, alle ragazze che da questa esperienza del coronavirus vogliono trarre un elemento di, come dire, contributo alla società anche nel futuro, alle ragazze e ai ragazzi, a queste e a questi, è dedicata la puntata di oggi. Vogliamo parlare della possibilità che un servizio civile diventi, come dire, una pratica diffusa, obbligatoria in Italia, un po' copiando quello che succede in Svizzera. Una pausa e poi torniamo con i nostri ospiti. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo, eccoci a Nessuna è perfetta, come vi dicevo, per parlare di questa ipotesi che comincia a correre un po', quella del servizio civile obbligatorio per rendere diciamo più attiva la partecipazione dei giovani in emergenze come quella che stiamo vivendo. Intanto vi chiedo che ne pensate, 828 1212 per i vostri messaggi vocali, e do il benvenuto, buona domenica, a Francesco Grillo, direttore del Think Tank Vision. Buona domenica, buongiorno, Francesco. Buongiorno. Allora, l'idea del servizio civile obbligatorio, che è un'idea che corre da tempo, nasce anche dalla, come dire, dalla riflessione che se ci fosse stata una popolazione più formata sulle cose basiche, diciamo, per affrontare questa epidemia, forse l'avremmo affrontata meglio. Per esempio, come? Ma intanto l'epidemia sottolinea un problema che già c'era. Evidentemente siamo vulnerabili e il servizio civile obbligatorio potrebbe essere una risposta. Ad esempio, abbiamo una evidente strozzatura nell'offerta di operatori sanitari, in particolar modo di infermieri, ancora più di medici, almeno questo dicono i raffronti internazionali. Il sistema sanitario chiaramente soffre di una di tagli direi stupidamente lineari che lo hanno molto ridimensionato negli anni, più che negli altri paesi europei, e tuttavia comunque anche in altri paesi l'offerta ovviamente di sanità come servizio pubblico è in qualche maniera rigida rispetto ad una domanda, e se c'è uno shock improvviso come in questo caso evidentemente gli operatori sanitari scarseggiano. Però Francesco Grillo, si dovrebbe allora, come dire, organizzare un servizio civile obbligatorio per cui i nostri ragazzi dai 15 ai 16 anni seguono dei corsi base, proprio basici da infermieri. Come potrebbe funzionare questa cosa? Non sono soltanto infermieri, le emergenze sono di tantissimo tipo. Noi abbiamo come paese un'esperienza di terremoti che sono in maniera anomala particolarmente devastanti in Italia, alluvioni, frane, e credo che questa globalizzazione, questa modernità ipertecnologica ci sta preparando altre emergenze di questo tipo, magari anche di tipo pandemico, ma ce ne possono essere altre. Ci sono paesi, Israele, la Corea del Sud, lo stesso Giappone, che vivono permanentemente in emergenza anche per questioni militari, no? come Israele piuttosto che la Corea del Sud, e possono essere un esempio. Ma l'esempio ancora più probabilmente calzante è quello della Svizzera. La Svizzera, che è tra l'altro il paese più neutrale del mondo, appunto, al punto tale che aderito alle Nazioni Unite pur ospitando il quartier generale delle Nazioni Unite soltanto nel 2003, ha un servizio militare che è obbligatorio in realtà in quel paese solo per i maschi. La nostra proposta è di estenderlo anche alle donne. Anche perché le ragazze in Italia sono quelle che fanno più volontariato di tutte, assolutamente, quindi sarebbe ben strano. Esiste un volontariato in Italia, ma è un volontariato innanzitutto molto poco uniformemente distribuito tra le diverse regioni. Ci sono le regioni del nord, in particolar modo l'Emilia-Romagna, dove c'è una forte concentrazione di volontariato, e altre dove i volontari sono molto, molto di meno. Ad esempio, Francesco Grillo, torniamo al progetto. Come funzionerebbe? Sì. Da che età e quanti mesi? E in che modo questi ragazzi dovrebbero apprendere ad avere competenze sanitarie, competenze per quanto riguarda i terremoti? Cioè, come lo vedreste questo progetto, sì, praticamente? Allora, ok, intanto il progetto che ovviamente è in progress, perché dobbiamo intercettare anche il governo su questa proposta, e sul sito di Vision, thinktank.vision, c'è una struttura più articolata. Allora, di nuovo, il modello è quello svizzero, e quindi rispetto a quello che si diceva prima, il servizio civile obbligatorio che noi pensiamo non riguarda soltanto i ragazzi di 15-16 anni. In Svizzera, ed è assolutamente l'opzione che noi riteniamo migliore, il servizio civile viene in quel caso il servizio militare, ma ha delle componenti civili molto forti, viene fatto in 7 fasi diverse della vita, a partire dal 19° anno di età, per la verità, fino a 50 anni. Quindi sì, questo significa che c'è un primo corso, crash course, no? Il primo anno, quando a 19 anni, tutti i cittadini svizzeri praticamente, tranne una percentuale molto bassa che non è idonea, stiamo parlando di circa il 20%, ma l'80% dei cittadini svizzeri fa queste 6 settimane nelle quali acquisisce appunto competenze di diverso genere, logistico, infermieristico, imparano a fare il massaggio cardiaco nel caso in cui c'è un incidente stradale, imparano a stare accanto agli anziani, alle persone che soffrono di marginalità, quindi questa penso che sia una cosa molto bella al di là della risposta all'emergenza, no? Far riscoprire i giovani, ma un po' tutti, questa idea di dover star vicino anche alle persone che hanno bisogno. Ripeto, queste settimane vengono poi riprese nel corso della vita. Un cittadino svizzero, a secondo dell'impegno che vuole dedicare a questa esperienza, fa dai 365 giorni distribuito lungo tutto l'arco della vita fino a 2000 giorni per gli ufficiali, che sono tanti, e quindi questo significa che si crea una riserva di persone che in ogni momento possono rispondere alle emergenze. In pratica si dice, ad esempio, che la Svizzera non ha un esercito, ma è un esercito. C'è da dire anche una cosa molto importante, che la Svizzera, potendo contare su un paese molto ricco, potendo contare in questa maniera su una guardia nazionale, chiamiamola così, di 140.000 persone, sostiene un costo che è decisamente inferiore rispetto al prodotto interno lordo e rispetto alle persone che riesce a mobilitare all'esercito italiano. L'esercito italiano Sì, mi interessa, diciamo, più l'aspetto di formazione delle persone per le emergenze, formazione sia sanitaria che di altro tipo. Quindi immaginiamo che questo servizio di 6 settimane possa riguardare i 19enni italiani di entrambi i sessi, evidente, i quali però per 6 settimane dovrebbero eventualmente sospendere il lavoro, se ce l'hanno, o gli studi. Sì, è assolutamente così. Gli svizzeri lo accettano di buon grado, per la verità anche gli israeliani. Faccio solo presente che stiamo parlando di alcuni dei paesi più competitivi, più ricchi, più dinamici del mondo. Non stiamo parlando di Israele, di Svizzera, di Corea del Sud, parliamo anche dello stesso Giappone. Quindi questo sembrerebbe non essere un problema. C'è da dire che tra i laureati in Svizzera e tra i dirigenti d'azienda, la percentuale di quelli che fanno leve lunghe, che arrivano fino anche a 2000 giorni nel corso della vita, è più alta. Quindi è per rispondere un po' alla domanda, alla preoccupazione, sospendo il periodo di studi piuttosto che la mia attività lavorativa. In questi paesi, in Svizzera ad esempio, è ritenuto un titolo di merito aver servito il proprio paese. Quindi non ci sono degli svantaggi in termini di carriera, perché si acquisisce un valore che per un cittadino è fondamentale: sentirsi parte di una comunità. E poi, certo, Francesco Grillo, se c'è un'emergenza, poniamo che appunto la Svizzera stia attingendo anche alle risorse che ha formato negli anni per questa epidemia che riguarda molto anche quel paese, anzi il numero dei contagiati è proporzionalmente più alto in Svizzera che in Italia, considerata diciamo la dimensione della popolazione. Però in questo momento loro, accanto al personale sanitario di cui dispongono eccetera, possono attingere anche per le cose diciamo più elementari anche ai propri cittadini, che sanno come si fa un massaggio cardiaco o come si fa un'iniezione. Esatto, ci hanno messo 3 giorni. In 3 giorni hanno richiamato 8.000 persone. Tra l'altro mi raccontavano ieri al telefono che questo è successo in maniera particolare nel Canton Ticino, quindi quello più esposto tra l'altro al contagio, perché confina con la Lombardia. 8.000 persone, delle quali 5.000 infermieri e anestesisti e 3.000 che vengono adibiti al servizio di costruzione di nuovi ospedali e di trasporto in autoambulanza dei malati. In 3 giorni c'è da dire una cosa: gente che fa altro, altro lavoro. Ci sono dirigenti d'azienda, ci sono dirigenti di banca. E una cosa importante: gli svizzeri portano a casa, alcuni preferiscono lasciarla in virgolette caserma, perché chiaramente sono delle caserme di natura molto diversa da quelle nostre, e la propria attrezzatura, quindi non solo il famoso coltello svizzero, no? Piuttosto sì. Che l'arma la lasciano quasi sempre in caserma, ma si portano appresso anche tutto ciò che gli serve per se sono ovviamente dedicati a servizi di natura infermieristica, perché è una cosa che probabilmente c'è da dire. Ovviamente ci sono delle specializzazioni all'interno dell'esercito, quindi ci sono ingegneri, ci sono gli infermieri, ci sono gli anestesisti, ci sono quelli che sono adibiti al trasporto di malati, che non è una cosa banale, non si può fare senza avere una competenza il trasporto in autoambulanza, soprattutto su certi percorsi. Quindi all'interno dell'esercito ci sono, che da noi sarebbe servizio civile obbligatorio, ci sarebbero diversi percorsi. Una cosa che vale la pena... Sì. Prego. No, prego, prego Grillo. No, una cosa importante è la obbligatorietà del servizio. Qui non stiamo parlando di una cosa che si sceglie. Io credo che sia molto importante che i cittadini e i ragazzi, e secondo me da parte dei ragazzi c'è una domanda in questo senso, riscoprano di avere anche dei doveri e non soltanto dei diritti. Questo può essere addirittura un punto vincente. La seconda cosa: sarebbe bellissimo che questa proposta diventasse una proposta europea. Nel breve vorremmo che si ricominciasse a discutere in Italia. Ma l'abbiamo lanciata, la stiamo lanciando qui, a nessuna è perfetta e speriamo che venga raccolta. Grazie Francesco Grillo, direttore del Think Tank Vision. Abbiamo parlato di una proposta che può interessare tutti, i giovani, i loro genitori, insomma la nostra comunità. Vediamo se il seme lanciato qui a nessuna è perfetta produrrà dei frutti. Buona domenica Grillo, grazie. Grazie. Si farà l'esposizione universale del 2015, si farà, sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da 1 centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. Nessuna è perfetta. Terzo blocco di Nessuna è perfetta, stiamo parlando di giovani, di competenze che si possono acquisire col servizio civile obbligatorio per essere pronti poi nelle emergenze come quella che stiamo vivendo praticamente in tutto il mondo. Ma adesso è il momento della nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica, Matilde Gioli, protagonista con Luca. Buona domenica a tutti. Ecco, protagonista con Luca Argentero della serie TV Doc nelle tue mani, che avete visto dal 26 marzo e che vedrete appunto il tutto per 4 puntate su Rai 1, una produzione Lux Vide con Rai Fiction. E mai serie televisiva fu, come dire, opportuna, perché è ambientata appunto in un ospedale e i protagonisti sono Luca Argentero, che è un primario di medicina interna, e Matilde Gioli, che è la dottoressa Giulia Giordano. Esatto, esattamente. Sì, siamo è una professione, quella del medico, che in questo momento è al centro della gratitudine di tutto il paese. Sì, infatti è una grande responsabilità, nel senso che credo che a tutti noi sia venuto anche il dubbio di essere forse inopportuni in un momento come questo, però abbiamo ricevuto tanto il sostegno dei medici veri che invece sono felici che venga rappresentato. Noi abbiamo cercato di farlo nel modo più realistico possibile, quello che avviene davvero negli ospedali. E quindi è stato un onore poter indossare quel camice e in qualche modo fare un tributo a queste persone che stanno dimostrando veramente una grandissima generosità e una grandissima energia, non solo i medici col camice, tutte le persone che stanno lavorando negli ospedali in questo momento, perché di figure ce ne sono tante. L'ho imparato, ecco, proprio per interpretare il personaggio, insomma, ho imparato che all'interno di un ospedale c'è davvero tanta gente che lavora. Ed è un lavoro di squadra, perché c'è bisogno ovviamente del contributo di tutti. Allora, Matilde Gioli, lo dicevamo, è la dottoressa Giulia Giordano, allieva del primario esatto. Andrea Fanti. Com'è un po' la storia? Come nasce questa storia in corsia? Questa storia nasce, dunque il primario è il primario di medicina interna e io sono uno dei medici strutturati che lo assiste, diciamo, nella gestione del reparto di medicina interna. Divento la sua assistente numero uno perché sono un medico molto molto efficiente e soprattutto molto molto così devota a lui come primario, a lui proprio anche come mentore. Sposo appieno il suo modo di fare medicina che mi insegna in questi 10 anni, un modo di fare medicina non proprio empatico, direi, un modo molto scientifico e a volte addirittura un po' cinico, e divento proprio il suo, come dire, no, il suo soldato numero uno, la sua fotocopia. In questi anni nasce anche un innamoramento non solo professionale ma anche sentimentale, perché insomma mi innamoro di questo bel primario. Siccome all'inizio della storia c'è questa tragedia, questo sparo in testa che porta il primario ad andare in coma e poi a risvegliarsi senza una porzione dei ricordi degli ultimi 12 anni, lui si dimentica anche di come aveva insegnato a fare medicina, soprattutto a me. Quindi io mi ritrovo con una persona che non riconosco più, che vuole ricominciare a fare il medico in una maniera che io non riconosco più, anzi quasi opposta a quella che lui mi aveva insegnato. Quindi il tema di tutta la serie, non solo per me ma anche per tutti gli altri medici dello staff, è quello di insomma dover ricominciare con il modo di fare medicina che lui fino a poco tempo prima ci aveva detto di evitare. Quindi un modo di fare medicina molto concentrato sul paziente come essere umano. E quindi con l'empatia che con i pazienti apprezzano in un medico. Beh, sì. E con l'empatia che tanti stanno dimostrando, tanti medici, tanti infermieri, abbiamo visto delle immagini di abnegazione, di gente che lavora 20 ore al giorno senza risparmiarsi. A questo proposito il mio pensiero va anche alla risposta che mi ha dato un medico che conosco, una mia compagna di liceo che fa il medico a Latina, e le avevo chiesto se voleva essere parte, no, della nostra puntata, visto che parlavamo di medici anche, e lei mi ha detto no, non è il momento, adesso quello di cui mi devo occupare io sono i pazienti che arrivano a ondate. È un senso di serietà e di devozione al lavoro. Beh, che mi ha molto commosso, mi ha molto commosso. Matilde, invece qualcosa proprio su te, come trascorri queste giornate di isolamento? Guarda, io sono rimasta a casa a Roma, anche se io sono di Milano, perché stavamo finendo di girare quando poi c'è stata la quarantena, quindi io non sono comunque potuta rientrare a Milano dalla mia famiglia. Loro sono tutti là, stanno tutti bene, sono tutti insieme a casa, ci facciamo delle grandi videochiamate, io sono qua da sola, quindi sicuramente sto iniziando a sentire un po' la solitudine, però sì, non mi sento assolutamente di lamentarmi, perché ho la possibilità di fare tante cose, di svegliarmi tardi la mattina, farmi delle belle dormite, leggere, sto disegnando, cosa che non avevo mai fatto prima, però un mio amico mi ha regalato delle matite colorate, quindi mi sono messa è il momento di scoprire nuovi talenti. Sì, grazie, cucino. Allora, beh, grazie a voi. Beh, si cucina tanto, in effetti, poi vedremo, come dire, i risultati sulla bilancia tra un mese. Grazie Matilda Gioli, protagonista con Luca Argentero della fiction di Rai 1, Doc nelle tue mani, e in queste giornate appunto di fiction di serie televisive ne stiamo facendo una grande scorpacciata. Grazie, buona domenica Matilde. Nessuna è perfetta. Ultima parte di Nessuna è perfetta. Buona domenica, benvenuta a Stefania Giannini, direttore generale dell'UNESCO e già ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Buona domenica Stefania Giannini. Buona domenica a tutti. Allora, in questa puntata di Nessuna è perfetta abbiamo cercato di mettere a fuoco come, invece di restare seduti sul divano a lamentarsi, come cittadini si possa essere utili ora e anche in futuro per la ripresa del nostro paese. E con Francesco Grillo, il direttore del think tank Vision, abbiamo discusso dell'opportunità di formare i giovani, ma anche meno giovani, con una sorta di servizio civile obbligatorio sul modello di quello svizzero. So, perché ne abbiamo anche fatto esperienza comune quando lei era ministro dell'istruzione, che lei teneva moltissimo all'alternanza scuola-lavoro. Questa ipotesi di servizio civile obbligatorio anche a livello non solo italiano la vede favorevole? Ma mi vede favorevole perché certamente è un modo attuale e concreto di interpretare non solo l'idea della scuola lavoro, che era un'idea e continua a essere un'idea secondo me importante per collegare i ragazzi alla società, insomma, per metterli nella condizione di capire oltre la classe, oltre l'esperienza di studio e contemporaneamente all'esperienza di studio che cosa trovano e che cosa possono dare anche alla società. E oggi, mi lasci dire, c'è una parola chiave che da questa situazione anche drammatica, che non solo l'Italia ma ormai tutto il mondo sta vivendo, noi dall'UNESCO lo vediamo con molta chiarezza a livello globale, e la parola chiave è solidarietà. Quindi io credo che un principio di solidarietà chiaramente iscritto nel percorso della formazione degli studenti e neanche in una prospettiva, no? Quella che noi chiamiamo lifelong learning, dell'insegnamento, certo, e dell'apprendimento che continua tutta la vita, sia veramente uno dei punti di svolta, no? E forse anche uno dei pochi lati positivi che possiamo vedere nel dopo coronavirus, nel dopo crisi drammatica che ci vede tutti coinvolti. Potrebbe essere anche un modo di tenere in vita sotto un profilo più pratico quella esperienza Erasmus che proprio in queste settimane ha subito dei bruschi rallentamenti, perché tanti ragazzi ovviamente sono tornati a casa in Italia perché non aveva più senso che rimanessero a fare l'Erasmus in Gran Bretagna, in Francia o in Spagna. Le chiedo sulla esperienza di un servizio civile obbligatorio europeo, quanta possibilità concreta lei vede? Ma io credo che l'Europa in questi giorni è messa veramente alla prova, o non solo per gli accordi necessari, mi lasci dire, su una solidarietà economica, no? Nei confronti dei paesi che soffrono di più, perché sennò l'Europa, diciamolo pure, muore qui, ecco, senza troppi complimenti e giri di parole. Ma forse anche in questi temi dove l'Europa ha trovato i suoi punti di forza, come l'Erasmus è stata una rivoluzione veramente, veramente fondante, no? Della coscienza europea, la generazione dei ragazzi di oggi, insomma, non ha nemmeno il dubbio sul sentirsi o meno liberi di circolare, di avere una stessa identità dal nord al sud, dall'est all'ovest del continente. Tuttavia va ripensato anche questo processo. Io non sono tra quelle persone che crede che cesserà la mobilità e, per l'amor del cielo, non è così che dobbiamo vedere, e non credo che sarà così. Però chiaramente anche i processi di internazionalizzazione delle università vanno ripensati, e questa è un'occasione, perché no, per dire, si va all'estero non solo per studiare i contenuti delle materie che si studiano nel proprio paese, per acquisire delle competenze linguistiche, per vedere come si vive negli altri paesi, ma si va magari all'estero anche per capire come si può essere utili in settori della vita civile che magari gli studenti oggi non necessariamente incontrano, no? Magari noi siamo, certo, un paese in cui c'è tanto volontariato, no? Questa è un po' l'idea di mettere i valori e i principi della solidarietà sociale che il volontariato italiano ha da sempre, no? Guidato con grande efficacia. E le donne e le ragazze sono, lo dicevamo prima, una attiva maggioranza di questo mondo del volontariato. Stefania Giannini, prima di lasciarla non posso non chiederle un giudizio su questa fase che sarà ricordata dalle generazioni che in questo momento stavano frequentando, chi le elementari, chi le medie, chi le superiori, chi l'università, sarà ricordato come il più grande blocco scolastico dal dopoguerra ad oggi. Lei conosce bene il ministero di cui appunto è stata alla guida, pensa che fosse pronto per le lezioni a distanza, le lezioni online, e pensa che si possa andare avanti con il blocco delle lezioni fino alla fine dell'anno? di quello che era l'anno scolastico? Guardi, noi abbiamo cominciato a raccogliere i dati sulla chiusura delle scuole a livello mondiale. Oggi siamo a 1.500.000.000, vuol dire l'85% della popolazione scolastica mondiale che si trova in questa situazione. Il mondo della scuola è pronto in Italia, è pronto nel mondo, ma evidentemente quando le cose avvengono dall'oggi al domani con questo sforzo veramente ciclopico di mettere la classe tradizionale in classe, trasformarla in classe virtuale, no, non si può dire che tutto fosse già pronto. Posso dire, e lo vedo dal nostro osservatorio, che è un osservatorio globale, l'Italia ne fa parte e ne sono molto orgogliosa, che i ministeri, i ministri si stanno impegnando al massimo. C'è una parte del lavoro che è più, diciamo, più semplice, è quello per esempio della didattica online per la scuola secondaria, perché lì metti dei contenuti, hai dei ragazzi che sono già in grado, no, autonomamente di interagire. C'è una parte del lavoro che è più complesso, la scuola primaria, i bambini più piccoli, ma si sta facendo un grande sforzo globale. L'UNESCO ha aperto per questo e lanciato la settimana scorsa una coalizione globale con i ministri, con il settore privato, le grandi compagnie che danno connettività e che danno anche infrastrutture informatiche, ma soprattutto con i paesi. E devo dire, il ministro italiano ha partecipato a queste riunioni molto attivamente e l'Italia sta mettendo a frutto quella che è un po' la nostra risorsa, no? Non è un modello, come dire, ritagliato su un progetto, ma una serie di differenti soluzioni, dall'inclusione della RAI, abbiamo visto, ad altri elementi che, se non era pronto tutto all'inizio, sono sicura che da questa esperienza per l'Italia e per gli altri paesi verrà una possibilità di ripensare non tanto per il futuro, come dicevamo fino a poche settimane fa, ma per il presente. Ormai per il presente. Sistemi, i nostri sistemi educativi, e ne usciranno forse più resilienti, più forti alla fine, no? Bisogna vedere la crisi. Senta Stefania Giannini, ma dal suo osservatorio privilegiato, che è quello appunto dell'UNESCO, sì, e avendo avuto modo di osservare anche le reazioni dei vari sistemi scolastici, c'è un sistema scolastico che si sentirebbe di come dire, segnalarci per uno studio più approfondito a quanti siano interessati a capire come sta funzionando meglio di altri un sistema scolastico? Ma è difficile fare, non si possono fare classifiche è prematuro, perché i dati li raccogliamo e sarà proprio quando questa crisi l'avremo superata il momento di fare un bilancio. Posso dire che la Cina ha reagito, insomma, lì è nata la crisi purtroppo del virus, ma ha reagito in maniera impressionante, mettendo 150 milioni di studenti, i numeri sono quelli in quel paese, mm-hmm, dall'oggi al domani online, utilizzando strumenti che il ministero cinese e anche alcune compagnie private avevano messo a frutto. Però posso citare anche altri paesi, magari che ci aspetteremmo meno, come l'Iran, un altro paese molto colpito dalla crisi, che ha messo insieme un po' all'italiano, il modello italiano, no? E il nostro paese insieme ad esso, e la Francia, che hanno articolato una serie di soluzioni, no? Quindi didattica a distanza, ma anche strumenti legati ai canali più tradizionali, come la radio, questo per esempio, e la televisione, che hanno raggiunto quelle fasce della popolazione scolastica che non era possibile raggiungere immediatamente. Noi facciamo uno sforzo per sostenere anche queste parti, no? Laddove la connettività non è ancora così radicata e capillare, laddove, diciamo, non tutto era pronto fin dall'inizio. Quindi io credo che... Vabbè, la radio è sicuramente uno strumento facile da utilizzare, presente in tutti i paesi, e secondo me molto efficace. I paesi africani si stanno orientando in questo senso, e vediamo che dal Senegal, le cito qualche esempio che ho proprio discusso ieri, la Costa d'Avorio, per dire tutta l'area francofona, sta utilizzando questo strumento molto efficacemente. Però è chiaro che è un grande esercizio esperimento sociale quello che stiamo facendo, e quindi è un imparare facendo, un imparare anche dagli altri, e questo è anche il senso della nostra coalizione. Invito a dare un'occhiata al sito dell'UNESCO, dove ci sono dati interessanti e anche lezioni che gli uni dagli altri possiamo imparare. Possiamo apprendere reciprocamente. Grazie a Stefania Giannini, vice direttore generale dell'UNESCO. Buona giornata, grazie. Grazie. E grazie a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici che anche questa domenica siete stati con noi e con Nessuna è Perfetta, e continuate a lasciarci i vostri messaggi vocali. Vi ricordo 828 12 12, li riascolteremo insieme domenica prossima. Nessuna è Perfetta tornerà con i vostri messaggi e con quello che ci proporrà l'attualità di questi giorni così, così difficili, diciamocelo, ma che hanno anche, come dicevamo con Stefania Giannini adesso, ci offrono anche l'opportunità di cambiare, di imparare da quello che ci sta succedendo intorno. Se vorrete, intanto ci possiamo sentire anche domattina, come sempre, alle 8:20 con 24 Mattino e con Simone Spezia. Buona domenica, ciao!